24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano le nuove tensioni sui mercati finanziari che non lasciano ben sperare in vista del G20 di Cannes. Borsa europea a picco in apertura di settimana con il differenziale tra i titoli italiani e tedeschi ai massimi, mentre il bel paese si trova a fare conti con uno dei tassi di disoccupazione giovanile più alti d'Europa. Intanto i BRICS cominciano a delineare le posizioni di intervento sul debito sovrano europeo. A chiudere una mostra sulla riqualificazione sostenibile in alcune città europee e mondiali. In primo piano, come dicevamo, l'avvio di settimana difficile delle borse continentali, l'ultima seduta di ottobre, che ha preceduto di 3 giorni il cruciale G20 in programma a Cannes, ha visto un profondo rosso per Piazza Affari, dove il FTSE MIB ha lasciato sul terreno il 3,82%, male anche tutte le altre piazze continentali, la peggiore Francoforte, che ha perso il 3,23%, seguita da Parigi, meno 3,16%, e Londra, meno 2,77%. A preoccupare l'Europa, ma anche l'Italia, lo spread tra i BTP decennali e il Bund tedesco, che si è attestato stato a 407 punti base dopo aver sfiorato nel corso della seduta i 410 punti. Il rendimento del decennale italiano sale sul mercato secondario al 6,09% dopo aver toccato durante la giornata un picco del 6,18%. Sentiamo. Titoli delle banche di nuovo nella bufera a Piazza Affari. Il settore ha vissuto una giornata sotto pressione a causa delle tensioni sui titoli di Stato italiani, con il differenziale tra il rendimento del BTP decennale e quello dell'analoga emissione tedesca salito sopra la soglia dei 400 punti base. Tra le blue chip milanesi, Intesa San Paolo ha perso il 7,4%, MPS il 6,2% e Unicredit il 5,7%. Male anche la Galassia Fiat, che conferma il trend negativo avviato dopo la pubblicazione giovedì dei conti trimestrali. Gli analisti si sono concentrati soprattutto sull'andamento del debito, cresciuto a un livello superiore alle attese. Fiat SPA ha fatto registrare così la peggiore prestazione del FTSE MIB, cedendo l'8,38%, mentre appena meglio è andata Industrial, che ha lasciato sul terreno il 7,89%. Paolo Paronetto da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore. Ma perché il mercato torna a punire l'Italia? Sentiamo Piercarlo Padoan, capo economista dell'Ocse, al microfono di Sebastiano Barisoni. Evidentemente questa non è una novità, il mercato è un po' di tempo che quando ci sono annunci di misure di politica economica in un primo momento diventa euforico, le cose vanno bene, poi appena il mercato dà un'occhiata più a fondo su quello che effettivamente i governi o le istituzioni internazionali si apprestano a fare, ritorna scettico, e questo è il caso. I mercati all'annuncio delle misure prese a Bruxelles qualche giorno fa inizialmente hanno risposto molto bene, poi hanno visto che dietro alle misure annunciate dai leader europei in realtà c'è ancora molto da fare, non c'è chiarezza sui dettagli, non c'è chiarezza sulle cifre, sono tornati ad essere pessimisti. Quindi è una questione di credibilità. Questo ragionamento evidentemente è ancora più forte nel caso dell'Italia. Il governo italiano ha presentato a Bruxelles una lettera piena di misure, di proposte di misure che sulla carta sono molto importanti, evidentemente i mercati si chiedono se queste misure saranno effettivamente prese nei tempi e nei modi che vengono descritti. Intanto si guarda alla G20 del prossimo fine settimana, il servizio. Il governo brasiliano è disposto a partecipare a un pacchetto d'aiuto all'Eurozona, ma solo se erogate attraverso il Fondo Monetario Internazionale. La Russia si allinea, anche se non esclude di valutare aiuti bilaterali, che peraltro spiega in una nota Arkady Dvorkovich, consigliere per i dossier economici del presidente russo Medvedev, nessuno in verità ha chiesto. L'ora dei BRIC suona alla vigilia della riunione dei 20 di Cannes. Sulla Croisette questa volta si riuniscono i grandi dell'economia mondiale, che rappresentano l'80% del PIL e 2/3 della popolazione del pianeta. Brasile, Russia, India e Cina rispondono all'appello per la ripresa di Barroso, ma mandano a dire che è tempo di finirla di essere trattati da comprimari al Fondo Monetario Internazionale, senz'altro, ma anche alla Banca Mondiale e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Se l'Europa vuole aiuto, insomma, dovrà pagare pegno e farlo in termini di peso politico, contribuendo a modificare un'architettura dei poteri in cui all'FMI Roma pesa il doppio di Brasilia. Il tutto proprio mentre il Brasile di Dilma Rousseff è pronto a sorpassare nella corsa del PIL anche il Regno Unito, dopo aver lasciato indietro l'Italia già lo scorso anno. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. L'Europa non si aspetti che la Cina corra al suo salvataggio dalla crisi del debito, anche se Pechino farà ciò che può per aiutare un amico in difficoltà, afferma in un commento l'agenzia di Stato cinese. Sentiamo Alberto Forchielli, presidente di Osservatorio Asia. L'agenzia di stampa di Stato Xinhua, chiaro lettere sabato, ha dichiarato che la Cina ha scarse intenzioni di sostenere il Fondo di Stabilità Europea. Questa cosa non è una sorpresa. Primo, perché l'opinione pubblica cinese è fortemente contraria, c'è molto scetticismo in Cina sulle possibilità dell'Europa di cavarsela. Il presidente del Fondo di Stabilità Europeo, Klaus Regling, ha fatto un errore madornale da principiante venendo venerdì in Cina, il giorno dopo dell'approvazione dell'allargamento del fondo, troppo vicino all'approvazione, troppo venditore, troppo umiliante. A questo punto i cinesi chiederebbero delle condizioni tali, così pressanti per entrare nel fondo, che credo che non convenga all'Europa averli e non convenga agli stessi governanti cinesi sfidare un'opinione pubblica così diffidente. Sostanzialmente il cinese medio dice: ma perché dobbiamo dare il frutto dei nostri sacrifici, 30 anni di lavoro per sostenere un'Europa che ha sempre voluto vivere al di sopra dei propri mezzi? E in effetti non è facile dare risposta a questa domanda. Inflazione stabile al 3% a ottobre nell'Eurozona, lo comunica Eurostat. In Italia l'inflazione ha registrato un aumento dello 0,6% e nel nostro paese preoccupa soprattutto la disoccupazione. Quella giovanile ha toccato ormai livelli record in Europa. In Italia la crisi del mercato del lavoro colpisce sempre di più i giovani. Secondo l'Istat, a settembre c'è stata una nuova impennata della disoccupazione, balzata all'8,3% con il numero dei senza lavoro che ha raggiunto quota 2 milioni, ma tra i ragazzi di età compresa fra i 15 e i 24 anni il tasso di disoccupazione raggiunge il 29,3%, il dato più alto dal gennaio 2004, da quando cioè si è iniziato a fare questo genere di rilevazione. In pratica un giovane su tre non ha lavoro e la situazione non va meglio per le donne. In base agli ultimi dati, infatti, quasi un'italiana su due è inattiva, cioè non ha un impiego né lo cerca. Ma oltre alla disoccupazione, l'Istat rileva che ad aumentare nel nostro paese anche il costo della vita. Ad ottobre, infatti, l'inflazione è salita al 3,4%. A pesare sono gli effetti della manovra, in particolare l'incremento dell'IVA. I rialzi più forti si registrano sui prezzi dei carburanti. Su base annua, quello della benzina è aumentato del 17,8%, quello del gasolio del 21,2%. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Quella che si è aperta ieri è la settimana dell'ok italiano al piano anticrisi presentato dal premier Silvio Berlusconi a Bruxelles. Tra le tante cose che chiede al nostro paese, l'Europa punta il dito anche sulle riforme strutturali per la giustizia. E così, nella lettera che ha consegnato la scorsa settimana ai vertici delle istituzioni dell'Unione Europea, Berlusconi indica le strategie a breve per dare un po' di smalto agli uffici giudiziari. Nel mirino finiscono i tempi esagerati della giustizia civile, che senza dubbio costituiscono un freno allo sviluppo. Tra le strade individuate, la prevenzione del contenzioso, evitare cioè che le liti finiscano in tribunale, potenziare il sistema di incentivi economici per le sedi più produttive, collegare gli archivi di tutti gli uffici giudiziari in un'unica banca dati centralizzata presso il Ministero. Il Sole 24 Ore oggi in edicola fa il punto sulla ricetta del Governo. Obiettivo finale è la riduzione della durata delle controversie civili di almeno il 20% di qui a 3 anni. Per passare dalle parole ai fatti, Berlusconi ha annunciato la creazione di una task force, un gruppo tecnico che avrà il compito di capire dove e perché si litiga di più e di proporre gli interventi di contrasto. Il tutto mentre oggi scade il termine per i capi degli uffici, presidenti di tribunali o di corti d'appello innanzitutto, per preparare il programma di smaltimento dell'arretrato. Praticamente tutti si sono messi in regola con l'adempimento. Non resta che aspettare il miracolo. Andrea Maria Candidi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora ad Atene il primo ministro greco Giorgio Papandreou ha annunciato che il nuovo piano di aiuti per la Grecia sarà sottoposto a referendum. Per chiudere la cultura, a Palazzo della Ragione a Padova è allestita fino al 13 febbraio la mostra della Biennale Internazionale di Architettura. Si intitola Superurbano, Rigenerazione Urbana Sostenibile e racconta 19 esperienze di riqualificazione e rinnovo in chiave sostenibile realizzate in diverse città del mondo ed Europa. La mostra è curata da Andrea Boschetti, lo ha intervistato Adriana Fracchi. Città sostenibili oggi vuol dire tutto e niente, sicuramente noi abbiamo definito questo concetto come superurbano, cioè un'attitudine non ancora realmente concretizzata della città per il prossimo futuro, ispirata dal basso innanzitutto, soprattutto dalla necessità di collettività e senso di responsabilità per gli spazi di tutti. quindi non solo un concetto, come dire, aderente al tema etico, quello più legato all'energia, al dispendio energetico, quindi al rispetto dell'ambiente, e non necessariamente esclusivamente a quello della salvaguardia e della protezione dei territori, ma anche invece proprio un concetto molto radicato al senso di collettività e all'uomo. Quindi un'idea di futuro che forse auspica di mettere in tensione tutte le scale del concetto di qualità della vita. Quindi da quelle più concrete, materiali, come sono fatte le strade, i nostri spazi collettivi, i luoghi, a quelle legate alla socialità, come ci si misura con la multiculturalità, con la necessità di reinventarsi dei luoghi pubblici e comuni. Questo è un po' forse il quadro di Superurbano. È tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.